Elia Media. Hanno il tono attivato, molti media c'hanno. Radio Aelia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontone. Hotel Nosfer è una sorta di reggia evanescente che c'è e un attimo dopo non c'è più. È come un alveare che sciama da un altrove all'altro. Ogni abitante dell'Hotel Nosfer e tutte le altre e tutte sono lei. Queste donne sono a un tempo impresarie, zitelle, maîtresse, sensitive, casalinghe, pitonesse e mistiche. Perché ogni chiave è una camera e ogni camera una storia. Ma in ciascun mazzo c'è sempre una chiave in più, quella che apre la soglia della camera che non c'è. Che cosa cambia quando a fare sono le donne? Di solito sei sottovalutata, specie dal punto di vista tecnico, almeno a me è capitato quasi sempre così. Proprio un problema che per me non è mai esistito. Banale assolutamente no, nel senso che forse le donne prendono più spesso le questioni come se fosse una missione. Ho cominciato a vederla come un gioco delle parti, ho cominciato quasi a divertirmici. Rimane come fatto fastidioso, negativo, ingiusto e orribile è che poi comunque si tende a dare valore prettamente economico, quindi a pagare di meno una donna, sempre. Pubblicità. Non vorrei che ci fosse una divisione tra quello che fanno le donne e quello che fanno gli uomini. Labbra vere, labbra finte. Labbra vere, labbra finte. Forse sono poche, effettivamente, perché c'è ancora lo stereotipo che la tecnologia è un po' è qualcosa che interessa più ai maschi. Mi piacciono i tacchi. So, devo dire qualcosa. E le borsette. Quant'è la percentuale di donne, di gruppi femminili, di ragazze, di donne vecchie, chiunque, ma di genere femminile in generi come l'hardcore, per dire? La capacità di fare rete la rivendichiamo come un valore e una vocazione. Io personalmente ho suonato anche con gruppi dove c'erano ragazzi e anche lì era bello, però era diverso. In Cina sono più emancipate delle inglesi. Io da donna italiana mi dicevo allora andiamo in Cina. Allora, visto che noi diciamo che non si può più, almeno nella nostra area geografica e culturale, non possiamo tanto come donne sentirci svantaggiate. Le donne mi piacciono. Io voglio esprimere me stessa e voglio piacere agli altri per quello che sono. Non ci trovo niente nei giornali, perché le cose importanti che dovrebbero parlare non le parlano, come case, asilo, sanità. Questo ed altro all'Hotel Nosfer. Mario Bue. Elia Media. Hanno il tono attivato, molti media c'hanno. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. www.aeliamedia.org.